Il progetto di Eni è quello di costruire un impianto di stoccaggio di CO2, anidride carbonica, per sostanzialmente prendere una parte delle emissioni che andrebbe a produrre continuando ad utilizzare gli impianti che già ha nel territorio di Ravenna. Sostanzialmente quello che fa è non smettere di emettere sostanzialmente, ma va a raccogliere una parte di queste emissioni e le va a mettere sottoterra a pressioni molto molto alte. Quindi in un territorio che ha già manifestato rischio sismico può provocare dei danni che non sappiamo, quindi può essere pericoloso. Noi vogliamo ovviamente, cioè ci dichiariamo contrari, perché è un progetto che va a prolungare questo utilizzo del fossile, dei combustibili fossili, che non ci porta da nessuna parte. Dovremmo investire i fondi europei per delle energie rinnovabili, infatti appunto Eni vorrebbe utilizzare questi 12 miliardi appunto con i fondi del Next Generation EU, l'Europa confluirebbe per l'Italia, no? Quello che vogliamo dire qui oggi è sostanzialmente che questi fondi non possono più essere dati per finanziare delle multinazionali che lavorano in tutto il mondo, che danneggiano i territori anche dei paesi meno sviluppati, e quindi non possiamo affidare il nostro futuro, il futuro di un impianto che continuerebbe ad inquinare per 40-50 anni, perché comunque sappiamo dalle fonti della stessa Eni che questo impianto arriverebbe ad una neutralità di emissioni, cioè andrebbe a prendere tutte le emissioni prodotte e ad azzerarle nel 2045, quindi andrebbe anche in contrasto con l'obiettivo della regione di arrivare ad una neutralità di emissioni entro il 2035. Quindi queste due date insomma non combaciano. Il messaggio fondamentale è: non possiamo più finanziare delle multinazionali che hanno come attività principale l'impiego e la combustione dei combustibili fossili.